a posto, Manuè. Quindi sto facendo un po' da mangiare, mi sto stirando la camicia per domani, che devo fare una cosa con un amico, poi sono, come si dice, un po' impegnato, un po' impegnato. Ah, meglio così, dai. E forse mi lascia la macchina questi giorni, vediamo un po' quale mi devo comprare. Non me ne sono oggi, in frequenza. Sì, però no, non vuoi far vedere. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E poi lo stesso. Va bene, mi ascolti a me? Sì, a voi. Ok, dai. No, arrivi benissimo. C'è un'antenna. No, perché ci ho dato fissiamo questo microfono? Vediamo un po', voglio fare una prova, aspetta. Guarda, si sta fischiando. Più alta la modulazione. Più amplificata. Aspetta, io. Lascia bene, lascia bene. Andare, andare. Sì, poi stamattina ho iniziato al blocco, vero? Quello là. Così finito, dai. Ah, sempre con quello. E allora? Andare, poi canti che ti baglia. No, ah, sto facendo un favore, ma non è quella mi baglia. Ah, ho capito. E vabbè, dai, è importante che sia ricompensabile. Sì, no. Sai che ho guio, io su guinchino, non so guinchino da più di tempo. Io su Batussi. Cioè mi sta facendo un favore, però sto ricambiando, va bene, ci sta. Noi prima di una cosa, poi mi ne un'altra, no? E poi lunedì, martedì, come si chiama? Devo prendermi là. La profettina per le urine. Devo fare adesso un cardiogramma, che c'ho un ricovero, non so, forse a fine mese, per farmi l'intervento al naso, capito? Da di noi adesso, io non fatti la video in bani di zanne. No, non sono da di noi, di Emanuele. Fuori posi, capito, setto, deviato, cose così. Non è una passeggiata, non vedo, Non è, quanto lo due, te l'ha bucato la... Ho fatto un sigla, mi va, così, Sì, è un altro problema. No, è un altro problema, Manuè. Più complicato. Vabbè, rimango un attimo a Alexio. Ma non vede nessuno. No, Manuè, no, io mi stavo dando una catata sta camicia. Dai, ci sentiamo dopo che devo fare anche la doccia. Sei acceso qua. Quando finisco ti chiamo. Sì, già acceso anche qua. Vabbè, Luda, a dopo. Ciao.